nostro sogno è avere un condominio di oggettine. Parenzo è il primo ad avere questa ambizione. Lo sappiamo che è così. Noi che non siamo religiosi lo diciamo apertamente. Lui, essendo religioso, non lo dice, ma lo pensa come noi. Samantha Capizzoli. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oh là là, ragazzi, buonasera. It's the final countdown. The final countdown. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Mi è rimasta in mente, caro David, mi è rimasta in mente una cosa che ha detto la signora Ripa di Meana, Marina Ripa di Meana, la professoressa, la dottoressa Marina Ripa di Meana, ieri sera qui in questa trasmissione. Signora Ripa di Meana ha detto una cosa molto secca, molto semplice: i rom sono immondizia. Non so se ti ricordi questa frase, oppure eri già preda delle tuoi spasmi da neopapà. Cioè, non so se eri già, se eri presente, no, ieri, eri presente a te stesso. Ieri, eri a Roma, vero? Eri a Roma, sì, non eri mi a devi, Roma. Come si dice in gergo, con rispetto per le autorità politiche, civili e militari, rompere i coglioni. Ecco. Ho detto già una parolaccia e non volevo, perché c'è il piccolo Cesare all'ascolto che salutiamo, peraltro. Sì, il alza bambino. Il volume, metti la bocca più vicino al microfono. C'è il piccolo Cesare, non mi interessa. In macchina, non mi interessa del piccolo Cesare. Come al solito, tu alle 6:30 non sei al posto di lavoro come tutti noi qua dentro, ma ci devi fare due cabasisi così, perché il bambino deve rimanere al mare, perché è l'orario migliore. Così mi ha detto l'altro giorno, divento pazzo io per questa cosa. È l'orario migliore, è l'orario migliore. È l'orario migliore. Anch'io vorrei l'orario migliore per andare a farmi i cazzi miei. Anch'io vorrei l'orario migliore. Tutti vogliamo l'orario migliore. Voi cosa volete? L'orario migliore? Cosa fareste a quest'ora? No, è l'orario migliore per il bambino. Ma dai, su. David? Sì, va bene. Mi dispiacerebbe andare a fare in culo. Bene, riprendiamo il filo del discorso. Riprendiamo io il filo. Bellamente me ne fotto e mi rilasso. Bene, sì, rilassati, basta. Infatti, fai bene, fai benissimo. Infatti, sei il numero. Me ne fotto e mi rilasso. Ma da questo punto di vista, sei il numero uno. È l'orario migliore. L'altro giorno dite è l'orario migliore. Volete, una cosa pazzesca, dai. Senti un attimo, Marina Ripa di Meana sui Rom. È l'orario migliore. Ma è una cosa incredibile. Bisognerebbe un po' ripulire questa città da tutto, dai rom, da tutto, ecco, e soprattutto dall'immondizia, ma comunque i rom spesso sono immondizia come l'immondizia, è peggio. Io non so se Parenzo ha espresso. Guarda, andrebbe ribattezzata Marina Ruspa di Meana anziché Marina Ripa di Meana. Marina Ruspa di Meana. Marina, sì, ma io, di Meana, perché non hai espresso, perché non hai espresso nessuna parola nei confronti dei bambini uccisi dai razzi, dai missili di Israele? Se me lo avessi chiesto perché oggi ho letto uno statista, un ministro israeliano che è intervenuto questa mattina, credo a Radio 24, credo, non lo so, sono un po' rincoglionito. Tu parli del ministro Tzipi Livni, il ministro della giustizia. No, che hanno detto in realtà la colpa è di Hamas. Cioè, la colpa è di Hamas, questo hanno detto. Allora, Parenzo, è una tragedia. Vabbè, no, questo dai, non dire parole banali. No, no. Vai al sodo. Banali un corno, perché quando c'è qualche morto. Guarda che ti taglio, se comincio a fare il pippone, ti taglio. Dunque, vai al sodo. È colpa di Hamas o no? È colpa di Hamas o no? È una tragedia. Vabbè, questo lo sappiamo. Vabbè, non sei un politico, non fare dichiarazioni da politico, dai. Io non faccio dichiarazioni, ma cosa vuoi dire? Vai. È ovvio che è anche colpa di Hamas. È anche colpa di Hamas, benissimo. Ma è evidente, però è una tragedia, ma è colpa di Amato. Ma no, è una bella cosa. Pensavo che dicessi che era una bella cosa, sai? Pensavo che dicessi che era una bella cosa. Io capisco che ci deve essere sempre, come dici, il sangue e la merda, però siccome si parla anche di vita di persone, io che non sono comunque un cinico stronzo come te, allora alle volte di fronte alle cose mi commuovo anche. Va bene, ti commuovi. Io sì, tu hai una vita dove sei senza Dio, senza patria, senza affetti, sono scopando in giro, è evidente che non hai nessun attaccamento alla vita. Come, scusa? Non ho capito bene questo passaggio, perché mi sa che c'è un po' di risentimento in questo passaggio che hai fatto. Comunque va bene, lasciamo perdere. Dio, lascio correre. Le miserie bisogna trattarle in questo modo, lasciandole un po', facendosele scivolare addosso. Umanità, ragazzi, ma togliete un attimo il microfono, un secondo, per favore. Siamo al top, ragazzi. Top, bisogna vedere poi da che punto di vista. Abbiamo già un ospite collegato, però volevo farvi sentire qualcos'altro. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. Eccolo qui, adesso arriviamo. C'è stato lo streaming Renzi 5 Stelle, Renzi, Di Maio and Company, eccetera, totalmente inutili. Io sono contro questa cosa dello streaming. Lo streaming è il contrario della trasparenza, cioè da una parte c'è la trasparenza, dall'altra parte c'è lo streaming. Cioè sono due cose proprio, una da una parte e una dall'altra, totalmente all'opposto. Cioè è una specie di, ce lo fanno per far fare le dirette alla 7, cioè... Ci sono le dirette sulla 7, dice, vabbè, che cosa possiamo fare per ravvivare il palinsesto oggi? È un bello streaming, così Mentana fa la diretta, dai. Questa è la realtà, non viene fuori nulla di nulla, perché in realtà poi si va a trattare le cose, si trattano segretamente, come è normale che sia in politica, non è una cosa così strana. A un certo punto Renzi ha detto pure, mi manda i messaggi che sono ingrassato, cioè proprio Renzi giocava col telefonino, quelli parlavano, forse fra un mese ci sarà un'intesa su qualcosa, non ce ne frega nulla assolutamente, preferenze, liste bloccate, eccetera. Renzi a un certo punto dice, cioè, sono ingrassato. Non ci arrampichiamo sugli specchi, sulle preferenze. Vi prego. Io chiedevo che lei chiarisse il suo pensiero. Lei chiarisce. Sugli specchi non mi arrampico, che da uno ho fatto la scelta tattica di mettermi qui, prendere appresso, mi sono levato la camicia. Però si è appassionato e quindi non va più. Si è appassionato, la vedo appassionato. Non si può arrampicare perché da un'ora che ho un messaggino. Va bene. Quanto ti sei ingrassato? Va bene. Non si arrampica a nessuna parte. Va benissimo. Mitologico scontro Parenzo Nobile e Marchi, ovviamente Stefania Nobile e Vanna Marchi. Che bella compagnia, mamma mia. Stai zitto. Siamo una bella compagnia, sì. Hai qualcosa in contrario? No, tanto per... Sono felice di stare a chilometri zitto. Di distanza, sì. Diciamo. Anch'io devo dirti la verità. Vabbè, vi detestate, va bene, qual è il problema? Vi detestate, mettiamo... Scusami, ma è una persona, due persone che hanno fatto del male. C'è anche la signora Nobile, buona, basta con questa che storia. Che bella coppia. Non rimbangare questa storia, sennò chiudiamo qui, Ma tu senti vita. Parlare qualcuno? Ascolta, per vendere sale bisogna essere molto furbi e svegli, lo sai? Bisogna essere dei truffatori, ascolta, tu vieni pagato per rompere i coglioni, pensa che fortuna che hai nella vita, no? per rompere i coglioni, certo. E parlare voi di niente. Il resto più avanti, siamo qui la Zanzara 800240024, abbiamo iniziato in questo modo un po' nervoso, ma abbiamo con noi il senatore Antonio Razzi, buonasera a voi tutti, ma vi permetti, caro Giuseppe, di salutare tutti i tassisti d'Italia, specialmente quelli che sono vicino al mio ufficio a Piazza delle Cinque Lune. E perché? Sono È perché sono grandi lavoratori. Io quando lo vedo d'estate che muoiono di caldo e stanno fuori a respirare un po' d'aria, sì, o se lo vendono perché stanno al fresco, l'inverno è la stessa cosa. Veramente è un lavoro molto molto sacrificato, molto sacrificato. Questo, eccolo, abbiamo voluto... Io ti faccio tanti auguri, facciamo un grande abbraccio veri, ai tassisti e ai veri professionisti, veramente complimenti, complimenti. Adesso, certo, adesso ve lo dico a voi, sì, diccela a noi io ve lo dico a voi due, dice, nel senso che Cristo prima vi fa e poi va a coppia, cioè? Siete una coppia perfetta, anche se litigate andate bene, andate avanti, fate divertire, perché in questo mondo dove c'è poco lavoro e non si fa niente, sì, per aumentare i posti di lavoro ai giovani, sì, almeno c'è Cruciani, c'è Parente che fa divertire, va bene, ecco, caro Antonio, qua. Ma lì tu sei al Senato, qui il Senato lo stanno abolendo, cioè, lo stanno facendo, vedi, fuori, amico mio, ma, ti trovi disoccupato poi alla fine, ma non è che stanno facendo fuori, e questo volevo tornare, stanno, cioè, levando, sì, anche ancora 1000 posti di lavoro a giovani, cioè? Cioè? E assistono i senatori, se ne vanno, devono andare via anche loro. Io in questo momento, proprio dove ci vuole posti di lavoro, sì, la mia proposta di legge, le case chiuse che dà posti, vabbè, di lavoro, quello d'accordo, ma che c'entra l'abolizione del Senato con i posti di lavoro? Tu dici perché? Ma l'abolizione del Senato esiste da 2000 anni. Cosa esiste? Roma. Ah, il Senato esiste da 2000 anni. Il Senato, ma insomma. Ma tu dici, ma perché si perdono posti di lavoro? Tu dici, abolendo il Senato si perdono posti di lavoro? Quali? Porta borse. Ogni senatore ha da 2 o 3 assistenti, e quei poveri assistenti devono andare anche in disoccupazione, e chi lo paga? E chi lo paga? Chi lo paga? Renzi, se lo va a pagare lui personalmente, o non credo che va l'Europa, visto che adesso c'è il semestre italiano, dice, ma noi siccome stiamo abolendo il Senato, sì, chiediamo più soldi perché dobbiamo pagare gli assistenti che vanno in cassa di integrazione, ma insomma, cerchiamo di dare fiducia all'Italia, cercare, ma almeno qualcosa va a fare, perché, no, perché lui ci sa fare, sì, Renzi ci sa fare, sì, allora che ci sa fare, cercare di dare lavoro ai giovani, vabbè, italiani, questo tu dici, e convinci gli imprenditori a venire a investire in Italia. Vabbè, d'accordo, però scusami, tu dici, se uno fa fuori il Senato, alla fine fa fuori i posti di lavoro. È chiaro, è tutto chiaro. C'è, è ancora più disoccupazione. Ancora più, cioè, togliendo il Senato si aumenta la disoccupazione. È normale, minimo 1000 persone. Minimo. Per non parlare dei senatori, anche tu ti potresti trovare disoccupato da un momento all'altro. Guarda, Giuseppe. Per me, ma tu la voti l'abolizione del Senato o no? Io sono 50 anni che lavoro. Sì. 50 anni che lavoro, perciò anche se me ne vado in pensione, per me non è un problema. Ma io lo faccio per gli altri. Ma io voglio dire una cosa, scusa, ma non è giusto, ma tu la voti l'abolizione del Senato o no? Fa figura. Io ho detto che, e lo ripeto anche nella tua radio, sei con Berlusconi alla fine? Io sono con Berlusconi mi dice questo e io faccio quello. Tutto quello, se ti dice una cosa tu la fai comunque, cioè, io sono un fans dipendente, fanatico, chiamalo come vuoi, diciamo anche schiavo, dai. Anche schiavo, ma sì, nelle mani di Berlusconi, un burattino nelle mani di Berlusconi. No, burattino sarai tu. Bravo, burattino è esagerato, hai esagerato. Schiavo sì, schiavo. Quello che Berlusconi dice per me è legge. Io penso che anche l'amico Parenzo e Cruciani siete schiavi anche della vostra radio. Questo non c'è dubbio, guardi. Questo che lo fa con amore come lo fate voi e come lo faccio è io. È schiavo, io penso che tutti lavori bisogna farlo con amore. Tu dici io amo la radio, del suo posto di lavoro. È la stessa cosa, tu dici io amo la radio e tu dici io amo Berlusconi. Bravo. Questo però è da pensarci. Un attimo solo che c'è il traffico. Torniamo con senatore Antonio e sottolineo senatore Antonio Razzi, Forza Italia. Lo dico amico d'amico, fatti i cazzi tuoi. Beh, questo è sempre il motto di Razzi, però devo dire la verità. Antonio, tu, anche se fanno fuori il Senato, tanto dici c'è il vitalizio, che te frega? No, io ho la mia pensione svizzera. Vabbè, io hai la pensione e pure il vitalizio. Quella parlamentare. Più il vitalizio, dai. No, non il vitalizio, credo che si assomma. Mi sembra anche 8 anni che sto lavorando lì. Sì, appunto, si assomma. E voi lo sapete benissimo che si lavora. Voi lavorate. Beh, si lavora, adesso al Senato si lavora, dai, su. Come no, chi lo fa con amore? Scusa, però voglio chiederti una cosa, ma non sarebbe il caso, a proposito di case chiuse, siccome il Senato chiude, facciamo una bella casa chiusa. Ma guarda, proprio oggi lo stavo dicendo. Cioè? Proprio oggi lo stavo dicendo scherzosamente a un senatore, a collega. Che stavi dicendo? Io stavo dicendo, minchia, dice, qua ci venderebbe proprio una bella casa fenomenale di ritrovo e darebbe ancora posti di lavoro, almeno diventerebbe il lavoro per tutti. È un'ottima idea, perfetto. È un'ottima idea. Palazzo, ma pure Palazzo Madama si chiama. Oh. Visto che si chiama Madama, perfetto, allora, allora dice... Dice che si chiama Madama e è riservata alle madame. Ma io direi, guarda, io questa qua l'appoggerei in pieno, anzi potrei anche iniziare una campagna. Aboliamo il Senato, Palazzo Madama diventi una grande casa per appuntamenti. Che dici? No, beh, è una scultura troppo elegante per fare quello. No. Ma come troppo elegante? Ma guarda che ci sono delle case chiuse pazzesche, c'erano una volta. Dei bordelli bellissimi, sì, stupendi. Probabile, però... non è, diciamo, adesso scherzando, va bene. Ma è che però, scherzando, io dico sul serio, però, altro che. Però sicuramente darebbe centinaia e centinaia, anzi dico migliaia di posti di lavoro. Non c'è dubbio, in non c'è questo dubbio. Momento molto molto delicato. Tanto le vacanze, gli italiani se ne vanno fuori all'estero e lo spendono fuori all'estero. Allora lì, cioè, vanno a puttane all'estero, dici, vanno a puttane all'estero. È normale, la prima esportazione di valuta sono gli italiani che vanno fuori all'estero. A puttane. È la verità. Però scusi un attimo, adesso parliamo di una cosa concreta, seria, no? C'è la guerra in Medio Oriente, lei sa questo casino. È un piccolo incidente. Si è arrivato a centinaia e centinaia di morti. Ecco, lei che è la, come dire, segretario della Commissione Esteri, secondo lei Berlusconi, innanzitutto, se ci fosse Presidente del Consiglio sarebbe già fatta la questione, sarebbe già risolto o no? Guarda, te lo dico da amico. Sì. Te lo dico da amico. Sì. Se c'era Berlusconi lì già si aveva fermato tutta la guerra. No, dai. Certo. Voi non lo conoscete Berlusconi, quindi c'è la mano santa. Antonio, ho capito, ma lì è una questione che va avanti da un sacco di anni, non è che arriva Berlusconi con la bacchetta magica e risolve tutto, su Antonio. Ma vedi che quando c'era Berlusconi non è scoppiato mai questi casini. Ma vedi che i due Marò stanno ancora in India e se c'era Berlusconi quelle e mo che stavano con le sue famiglie. Ma vogliamo lavorare un po' anche per riportare questi due Marò in Italia? Però scusami Antonio, ma Berlusconi potrebbe fare oggi, che è vero che non può uscire, però il mediatore... Passaporto, ma dico io, ma che mondo viviamo? Che il passaporto, quello è stato condannato. Amico mio, è stato condannato. Insomma, ma che condanna, non ha fatto niente. Adesso arriva pure quella di Rubi, niente. Arriva pure quella di Rubi fra poco. Ma una roba da mafia. Io, guarda, se me lo dico da amico. Sì, diccelo da amico. Se ero io al posto suo già ero crepato, guarda. Già eri morto. Sì, ma come si fa a accusarlo di una cosa e smette uno e comincia un altro? Ehi, magistrati. Non ho capito però, da membro della commissione esteri, non ho capito che idea si è fatto del conflitto. Cioè, chi è il colpevole? Vero e proprio. Ma guarda, io ho un'idea. Ecco, sentiamo. No, io ci andrei io con Parenzo. Ma sicuramente risolviamo tutto, perché Parenzo è comunista. Io non sono comunista e mettiamola insieme. Però Berlusconi potrebbe fare il mediatore. Sicuramente, perché lui è... C'è inviato speciale dell'ONU, magari. Guarda, sarebbe un'ottima soluzione sia... Non può uscire dall'Italia, però comunque... E sia di Renzi. Manderebbe solo per dialogare e far pace a tutti questi paesi dove si trovano in vibrazione. Certo. E quando arriva Berlusconi vedrai che calmerà tutto. Bah, dai. Te lo dico da amico. Però io voglio capire una cosa. Tu hai detto una cosa sul Quirinale. Perché abolire il Senato? Chiudiamo il Quirinale. Ho detto sì, chiudiamo il Quirinale. E che ci facciamo? E visto, visto che si può risparmiare tanti soldi, sì, allora ricominciamo a levare il Quirinale. Il Quirinale lo portiamo a Palazzo Chigi, tanto così sta il Premier, uno un piano, uno all'altro, così vanno subito, non è che deve prendere la scorta, deve prendere e deve andare su al Colle, invece stanno tutti là, e lì ci si farà un bel museo. Un museo della storia di Roma e della storia d'Italia diventerebbe il museo più grande al mondo. Però scusa, sto Napoli incasserebbe come dice Crozza, soldi per lo Stato. Ma scusa, Napolitano, dove lo mettiamolo? A Palazzo Chigi, pure lui. Con una stanza a Palazzo Chigi. Ci stanno tante stanze, scusa, perché pure quello è vero, però ha torto, però. Io ho pure un ufficio piccolo, non è che c'ho un ufficio di come quello è Napolitano. Sei nazi, però, scusa. È Napolitano, però. Senti, però io sono curioso, siccome Razzi vive a Pescara, posto dove ci sono moltissimi zingari, no? Moltissimi zingari. Allora, tu che ne pensi di questa cosa vergognosa dell'invasione dei Rom nelle stazioni italiane? Se adesso stanno prendendo dei provvedimenti, è brutta gente pure sti Rom, no? Che bisogna fare con sti Rom? Ma no. E sicuramente ci sarà anche brave persone. Ci sarà, certo. Solo che loro vengono dalla storia, i Rom, ma sicuramente io ne conosco alcuni qui a Pescara, sono persone per bene, persone eccezionali, non sono dei ladri professionisti. No, ma assolutamente, magari loro ce ne hanno nominate e gli altri lo fanno. Come? Di solito loro sono nominati per questo e gli altri lo fanno, come dice il bue, dice curruto all'asino, capito? Ho capito. Da buon intenditore, poche parole. Certo, non c'è dubbio. Bravo, Razzi, bravo, vedi. No, vabbè, è moderato da questo punto di vista. Senti, ma è il compleanno della Merkel oggi? Vogliamo fare gli auguri alla Merkel? No, il compleanno della Pascale. Anche della Pascale. Ma poi io gli faccio sinceramente in tedesco la Merkel. Gli auguri alla Merkel, viele Glück in dein Geburtstag. Viele Glück. Che vuol dire? Tanti auguri per il tuo compleanno. Sì, ma di anche sii buona con l'Italia, fai qualcosa o no? Ja, Max è bis gut für Italien. Nicht immer Tom Schnorr und reklamiere per über Italia. Italia ist Italia, l'Italia ist die beste. Wie Deutschland. We don't need no education. We don't need no control. Te lo dico d'amico, fatti i cazzi tuoi. No dark sarcasm in the classroom. Oh là là, ragazzi, buonasera. Che tempi. Cioè, mi avvertono dalla regia, da Twitter, mi avvertono dal centralino che sto per ricevere una telefonata, non so di chi. Ti devono chiamare da dove? Da radio? Ah, radio DJ. Vabbè, mi chiamassero, io ho qui il telefono. Da qui. Radio DJ. Ma non lo so perché, non so chi c'è in onda adesso, radio DJ, chi c'è in onda? Siamo al top, siamo la al sera, top, chi ragazzi. C'è in onda? Ah, forse Fabio, sì, Fabio Volo, sì, può darsi. Ha cambiato dalla mattina alla sera, chissà perché. Vabbè, chiama noi, amici miei. C'è qui. Sì, vabbè. Il telefono è qui. Ma non è che telefona Radio Padania, per sbaglio, poi. No, non credo che voglia telefonare Radio Padania, non credo. Comunque, vabbè, in attesa della telefonata del signor Volo. No, ma non so se è lui poi che vuole telefonare. Non vabbè, so. Siamo qui noi, si chiama Pellegrin chiama, annunci Volo invece telefona Pellegrin. Volevo dire a tutti gli amici che mi stanno minacciando nella posta privata di Facebook, insultando pubblicamente su Twitter, che l'ONU, l'organizzazione che a voi pacifisti piace tantissimo, mamma mia che palle, ha dichiarato però. Oggi che in una scuola di Gaza gestita da loro, Hamas aveva nascosto delle armi. Ecco, fine. Vabbè, adesso è una piccola cosa rispetto, no? Rispetto all'uccisione dei bambini, all'errore dell'uccisione dei bambini. Beh, quella è una roba tragica, te l'ho già detto. Tragica. Come si risolve questo conflitto in Medio Oriente, Razzi? È uno che la sa, è lui. Ma guarda, sicuramente. Cioè, tu che faresti? Che faresti tu? Bisogna dialogare, perché con le armi non serve a niente. Cioè, guarda, tu condanni. Dov'è Gaza? Scusa, Antonio. Sicuramente una commissione italiana. Commissione italiana. Sicuramente. aiuterebbe, perché ma una commissione che vuol dire una commissione? Con chi confina Gaza? Con chi confina Gaza? Manco lo sa. Dov'è Gaza, Antonio? Confina con Parenzo. Dai, Antonio, dov'è Gaza? Sul serio, dov'è? Confina. È lì nel Medio Oriente, scusami, che sta in Abruzzo. Io sono a Pescara. Mica sì, ma dov'è Pescara. Gaza? Dove si trova Gaza? È là, nel Medio Oriente. Ma dove esattamente? Ma con chi confina? Tra l'Israele e la Palestina, scusa. Ma no, no vabbè, tra Israele, un attimo, scusa. Esattamente, dove si trova? Sulla... Senti, prima che mi dimentico. Dimmi. Ve lo dico da amico a tutti. Sì. Buone vacanze a tutta la redazione di Radio 24. Ah, beh, quello sempre, sì, quello sempre. Ma io non ho capito una cosa, Israele, per esempio, con chi confina, Antò? Dove... Ecco, almeno. Guarda... Adesso mi prendi all'improvviso. Ma come ti prendo all'improvviso? Quali sono i paesi confinanti? Sicuramente non confino con Pescara. No, vabbè, questo no. Non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. E nemmeno con Montesilvano, questo sì, sono sicuro. Il resto adesso mai preso all'improvviso. Ma cos'è il segretario della commissione esteri, Antonio? Non sai. Pressa poco. Quali sono i paesi con cui confina Israele? Ma no, sì, occhio e croce. Sarà lì, c'è il Libano, c'è la Palestina, c'è l'Israele. Israele. Aspetta un attimo, che mi chiamano. Un secondo, un attimo. Chi è? Pronto, Cruciani, sono Fabio Volo, in diretta su Radio DJ. Ciao Fabio, che hai chiamato a fare? Ti sei sbagliato, non è Radio Padania questa. Questo vuole un razzo. Io sono metà bresciano, metà bergamasco, i nonni cremonesi, io sono proprio l'idolo di quella gente lì, diciamo, di Salvini, potrei essere la bandiera di quel partito. Ma l'hai mai votato te, Fabio? La Lega? Ma no. Ti fa schifo, diciamo la verità, ti fa orrore la Lega. Ma no, io giro il mondo, figurati se mi chiude dentro quella roba lì, dai. Cioè, figurati se voti Lega, uno come te che gira il mondo, Barcellona, New York. No, andiamo in giro, capito? Sono così belle le cose, le società mischiate, no? È così bello il multiculturalismo, bianchi, neri, gialli, tutti insieme. Che diventa come la barzelletta, che ieri sera la cena eravamo un italiano, un tedesco, un francese, che è così bello che si mischia tutto. Io non ho capito una cosa, scusa, ma perché sei passato a fare la sera? Scusami. Perché sei passato a fare la sera? No, solo questa settimana siamo in tournée con Radio DJ. Allora ascoltami, un ascoltatore qua dice, no, sì. Ne sono due, uno che di solito ascolta Radio DJ, che gli sto sul cazzo, per cui ascolta te. Questo va bene. Un altro uno invece è un Domenico che ascolta te e dice le tue cazzate, però quando vanno i dischi giro di là. Volevo sapere di cosa stavate parlando. Beh, eravamo in collegamento con il senatore Antonio Razzi, che ti presento, non so se lo conosci. No, non lo conosco. Razzi. Ah, Razzi, però non lo puoi sentire perché tu mi hai chiamato. È ancora lì con voi? È ancora lì con noi e ha detto che ha una soluzione per il Medio Oriente, quello di fare mediatore di Berlusconi tra israeliani e palestinesi. Che dici tu? Beh, io sai che per me i politici sono sempre persone, per cui io mi domando sempre, ma quando io faccio una figura di merda, io dopo lo devo sparire, invece alcuni fanno delle figure di merda e il giorno dopo sono ancora lì, io dico sempre, ma come faranno poi la sera a casa? Cioè, non... Sai, quando uno dice io mi faccio i cacci miei, che mi frega, il giorno dopo io prenderei un biglietto aereo se qualcuno avesse registrato. E invece loro sono sempre lì. Allora faccio da tramite. Caro Razzi, ha detto in sostanza Fabio Volo, non so se l'hai sentito, che tu, siccome hai detto mi faccio i cazzi mia, eccetera, dovevi prendere un biglietto aereo e andartene via dall'Italia. Questo ha detto in sostanza. Perché non ti vergogni? Parlo a vento. Oh, senti, giornalisti. Che hai detto? Che hai detto, Antonio? Scusa? Lui parla al vento. Sì, eccomi. Sai, funziona così da noi, che ogni tanto, anche quando si fanno delle cose radiofonicamente belle, arrivano le breaking news. Ma questa è una notizia importante, però. Che a me mi fanno due coglioni così le breaking news, capito? Le abolirei tutte, le breaking news, tu capisci che quando uno, cioè, a un certo punto si perde tutto l'amore, tutta la musica, cioè si perde tutto, si perde il racconto, si perde tutto. E cos'è la breaking news, l'hai sentendo? Però era giusto perché c'era l'aereo che è caduto, è tutto corretto, Sì, è tutto corretto, però in generale generale. Fabio Volo non ospita mai Razzi. Quindi l'onorevole dico avrà fatto la battuta, Volo parla al vento, no? Sì, ha detto più o meno così, parole al vento. Scusi. No, ma io non sono un cattivo politico, è proprio per la figura di merda. Io dico sempre che avrei vergogna a uscire di casa. perché dico, ah, abbiamo beccato ieri che hai detto, vabbè. Vabbè. Stai, stai bene. Tu come stai? Senti, ti voglio chiedere una cosa, Antonio, aspetta un attimo lì. Ma io ho questo problema di Parenzo che tu puoi capire, che è un problema... No, il problema di Parenzo, anzitutto ti invidio perché tu non hai un Parenzo accanto a te, fai tutto da solo. Ma... E questo, vabbè, ti invidio moltissimo. La seconda cosa è, tu puoi capire, lui ha un bambino piccolo e dice che l'orario migliore per portarlo al mare è proprio alle 6:30, alle 6:30, alle 6:20. Tra le 5 e le 6:30. Siccome però lui è in diretta alle 6:30, allora dice, scusa, posso stare al mare fino alle 6:30, fare la radio al telefono fino alle 7:05 con la babysitter? Tu ti rendi conto di come sono messo io? Non rompe le palle, però si vede, guarda, posso dirti, si vede quelli che sono nati ricchi e quelli invece che hanno lottato per farsi, capito? L'approccio al lavoro, no? Sì. Dai. Sì, è vero, è vero, è vero. Sì, va bene, è vero, è vero. Senti, ti saluto, ti ringrazio anche per il nostro ascoltatore. Va bene. Ti aspetto DJ quando vuoi una mattina che ti svegli presto. Quando vuoi tu, ciao. Va bene, ciao. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Ultima puntata, anzi no, ultima puntata, cioè, ultimo episodio, ma ce ne saranno altri, di Marco se n'è andato via. Marco se n'è andato e non ritorna più, il treno delle 7:30 senza lui, è un cuore di metallo senza l'anima. Vi ringrazio di avermi chiamato. C'ho una curiosità, ma non ci dormo quasi. Come si può spiegare il fatto, non che si sia eliminata, sì, sì, la partitocrazia ormai deve muoversi anche, sì, in questa fase della sua storia, anche con delicatezze di stampo sovietico o fascista. Tutto chiaro, tutto chiaro. Come si può, come si può spiegare non il fatto che sia stata, sì, eliminata Emma, come è stata eliminata dal ministro degli esteri. Come si può spiegare? Ma come è possibile invece che non esiste un cane rognoso, un pazzo, un imbecille, giornalista, sì, politico, radicale o anche, che non ponga il problema? Dai su ragazzi. Ma quale problema? Il problema di Pannella, ragazzi, è che nessuno prende in considerazione l'ipotesi che Emma Bonino sia nominata ministro degli esteri dell'Europa. Una carica, diciamolo amici miei, che non conta un cazzo! Diciamolo! Caro Razzi, lo dica pure lei! Ma è vero, è vero, è vero. Senti, io adesso sto andando a mangiarmi due sagne e fagioli lì al Melograno sotto Miglianico. Ti volevo ancora invitare, ma purtroppo tu sei lontano. Ma scusa, ma non eri a Roma al Senato, scusa? No, no, sono già a Pescara, sono già a Pescara. Sei già a Pescara? Senti, io ti dicevo la questione, quella che lì in Medio Oriente poteva solo fare Berlusconi, fare papà. Sì, certo. Perché ne sono testimone su quanto riguarda la liberazione di Max Goldi a Tripoli quando c'era Gheddafi. Perciò è l'unico. Ma vabbè, era amico di Gheddafi quello, certo. Berlusconi è l'unico che gli può dare affidamento per liberare i Marò. Vabbè, i Marò lo sappiamo. Pace in Medio Oriente. Ma Berlusconi non può uscire dall'Italia, amico mio. Ma glielo devono fare uscire, gli devono riconsegnare non un passaporto, due passaporti. Due passaporti, sì, no, due passaporti. Due, no. Ah, tre, che ci frega, pure tre, dai. Che ci importa, potrebbe, pure tre. Potrebbe fare i domiciliari. Scusa, ma io vorrei capire una cosa. Ecco, perché non può fare i servizi sociali a Gaza? Sarebbe buonissima questa cosa. I servizi sociali a Gaza, ottimo, eh? Sì, ma non c'è il passaporto, come fa? No, ma i servizi, guarda, ci sono un sacco di onlus in giro. Devi andare a fare i servizi sociali per liberare tutti. Perché solo ma lui può chi? Liberare tutti. Ma chi liberare? Non c'è nessuno da liberare. Solo lui può far pace ai palestinesi e agli israeliani. Ma i palestinesi non lo possono vedere, appena lo vedono Hamas gli fanno un culo così. Niente. Ma come ma no? Non è vero niente. Signori di Hamas non lo possono vedere. Quello è figlio israeliano. Anzi, dici, praticamente viene Berlusconi, gli fa una bella televisione a Gaza, una specie di canale Gaza, anziché di canale 5, fa una televisione e poi tutto si risolve. Potrebbe aprire una bella televisione a Gaza per i palestinesi, stupendo, ma televisione privata. è un genio, sa risolvere tutti i problemi. Senti, ma scusa Antonio, con Scilipo Hamas, dove ti insegnano ad esempio a fare delle bombe, così fa una bella televisione. Ecco, a proposito, dove... questa storia dei razzi, no? Sei stato anche un po' sputtanato in questi giorni, cioè razzi. Sì, infatti i miei colleghi senatori mi dicevano: ma non eri a Gaza? Beh, io sono stato stanotte, ma già sono ritornato. Ah, dici con i razzi che cadevano, no? I razzi. Sì, cioè, razzi a Gaza, ti ha dato un po' di fastidio questa cosa di questi razzi che cadono e uccidono, che si chiamano come ti chiami tu, insomma, no? Sì, sinceramente sì. Dici, ma guarda, ma questi stanno approfittando del mio nome. Ma insomma, mo mi chiedi i diritti d'autore anche ai razzi che buttano giù. I diritti d'autore ai palestinesi, agli israeliani, certo. Non vai in missione lì, però. Non vai in missione, no, ma che sei fatto in missione lì a piare bombe? Figurati. Ma figurati, no? No, non posso andare io in missione perché sennò arriva razzi e sto cazzi. Scusa la battuta. certo, arrivano razzi e scoppiano, capace pure che scoppiano sti razzi poi, no? Senti, ma che vuoi dire al tuo collega Scilipoti che potrebbe tradire Berlusconi? Sarebbe incredibile, voi avete fatto un percorso insieme, poi è una cosa incredibile. Ma io dico solo all'amico di riflettere, riflettiamo. Non può assolutamente tradire il nostro leader. Il nostro leader è solo Berlusconi, non ci sono altri leader. Ho capito, però lui ha detto, io lo dico d'amico pure a lui, diglielo d'amico a Scilipoti. Io lo dico d'amico, caro Scilipoti, fatti i cazzi tuoi e rimane con Berlusconi, no? E non lasciarci. No, perché quello potrebbe votare contro il Senato, là, contro l'abolizione del Senato, perché non so che vuole, insomma, capito? No, malumori. Ma ci sono malumori, ma io penso che già nell'ultima riunione che Berlusconi abbiamo fatto l'altra sera lì alla sede di Forza Italia, sembra che ha rimesso tutti, anche se qualcuno si è un po' incazzato, ma no, purtroppo fa parte della discussione, ma che penso che rifletteranno e faranno quello che dice il capo. Che il capo ha sempre ragione, bisogna fare così. Ma se lui ti dicesse vieni al guinzaglio con me, tu ci andresti al guinzaglio con Berlusconi? Sì. Ma senz'altro, scusa, se io sono uno suo e non sono mica di Parenzo. Quando sono di Parenzo, se mi paga Parenzo, io vado con Parenzo. Non è che ti paga proprio Berlusconi. Ma che modo di ragionare è, però, il popolo alla fine tu dici mi paga Berlusconi. Se Parenzo si fa un partito suo e mi paga? E mi paga, io vado con Parenzo. Ma è molto semplice. È una mentalità terribile, però. Ma quale terribile? Vabbè, Antò, che mai a mangiare stasera? Le lasagne? Io vado a mangiare sagna e fagione, sagna e cici con l'aia fritta. E siamo al top. Grazie, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ah, ragazzi, ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Samantha Capizzoli. Ancora questa Samantha Capizzoli a Luttwak e basta. Paolo da Treviso, buonasera Paolo, vai a raffica, forza, una bella raffica di ascoltatori. Paolo, vai. Sì, buonasera, sono Paolo da Treviso, un tassista. È un po' che aspetto, mi stavo addormentando. Addormentando, non dire cazzate, sta addormentando, no, non esagerare. No, scherzo, perché voi siete veramente simpatici. Io ammiro anche Parenzo, che mi piace, ragiona bene, però quando parla dei rom continua a dire che qualche rom è bravo, si comporta bene. Io sono un tassista, le cose le vedo. Che fanno questi rom? Forse qualcuno fa anche il bravo, ma la maggior parte sono organizzati per fare gli accattoni, per delinquere, per rubare sulle macchine. Amico mio, la realtà. Sì, la realtà è questa. La realtà è quella che raccontano gli ascoltatori. Non è quella che vedi tu. Non è che quella che si inventa Parenzo, la realtà. La realtà è quella che raccontano. Le vedo anch'io queste cose. Non è che ho negato che non le vedo anch'io. Oggi sono arrivato a Nettuno, ad esempio, a mezzogiorno, e ho postato una foto su Twitter della stazione di Nettuno, come direste voi assediata, in realtà c'erano 7-8 roba la vita, che chiedevano, bella che chiedevano, bella ma c'è chi può, c'è chi può, certo, a Nettuno sono arrivato a mezzogiorno, bella la vita, arrivato a mezzogiorno a Nettuno, il pranzetto e la in spiaggia, quel tassista gli sta facendo un mazzo così, capito, no, Parenzo, che ha fatto fino a mezzogiorno, è arrivato a mezzogiorno a Nettuno tranquillo, poi il pranzetto, il bacetto al figlio, la spiaggia, il sole fino alle 6:30, che c'è stasera, che chiamo a fare la zanzara, che pancia piena, la cosa incredibile, la cosa pazzesca. Ma tu che hai fatto ieri? Vogliamo dirla tutta. Sono andato a una festa fino all'ora all'1:40. Allora, chi vuoi da me? Tu hai fatto una festa, io ero in studio. No, adesso raccontiamo tutto. Fai parlare Paolo. No, adesso raccontiamo tutto. No, sei aspetta. Andato a una festa fino all'1:40. Beh, allora qual è il problema? Ma infatti non c'è nessun problema. Io invece me ne sono andato a casa e sono andato poi a cena con la mia compagna fino alle 1. Vabbè, ma adesso che cosa c'entra? Io, fai parlare Paolo, che voleva dire una cosa su Roma. No, paura che mi arrivi il cliente. No, niente, voglio dire, basta che qualcuno fa il bravo. Ci sarà qualcuno che emerge, che ha un po' di coscienza, che si comporta bene. Ma prova ad andare a stazione Termini, prova a cercare di fare un biglietto automatico. Guarda come fanno, che mandano le bambine a distrarti per fottersi poi. Guardi, lo sa qual è l'unico modo quando uno è lì alle macchinette automatiche per fare biglietti e si avvicina uno di questi? Io una volta ho detto a una signora che c'aveva un bambino in mano, che mi chiedeva qualcosa, no, non voglio uno, lei insisteva, ho detto, senta, scusi, lei può andare gentilmente a fare in culo, altrimenti chiamo la polizia, così ho detto, ti giuro. Siccome insisteva la signora, la signora Rom o Zinga, non so che cosa fosse, con un bambino in mano, ma poteva essere chiunque, non solo, dopo 2-3 insistenze che voleva i soldi, il resto dei biglietti, eccetera, insisteva un attimo, scusi signora, potrebbe andare a fare in culo per favore, altrimenti chiamo la signora polizia, della polizia. Bisogna reagire in questo modo. E lei tutta imbufolita mi ha guardato male, ha detto qualcosa in un dialetto strano, in una lingua strana, e via, poi se n'è andata, capito? Ciao Paolo. La polizia è lì che passa, ciao Cruciani. Ciao Parenzo. Ciao Carlo. Antonio da Catanzaro. Buonasera, sentivi il discorso dei zingari, con questi ci vuole solo l'aggressività come ce l'hanno loro, Luciani. Ma no, ma non è che è sempre aggressività, qualche volta bisogna, no? No, però siccome alla mente eterne pure, no? Quando ti rubano una macchina, la polizia e i carabinieri ti dicono, sei andato a vedere dai zingari. Cioè loro ti dicono, sei andato a vedere dagli zingari se ce l'hanno gli zingari, quindi tu devi avere l'amico dell'amico, buttare la macchina, allora non fanno un cazzo. Vabbè, diciamo che i ladri esistono anche a prescindere dagli zingari, non è che ci siano solo loro come ladri, in Italia abbiamo fior di ladroni, come dire, fior di ladroni. Però loro sono difesi. Dalla politica, anche ma dalla politica, cose. Dai, dalla politica, non esageriamo, dalla politica, dai. Dico una cosa, sono difesi dal fatto che in Italia non succede mai nulla. Oggi in treno, sono venuto da Roma in treno, dei signori sono andati dentro un treno senza pagare il biglietto, non so da dove venissero, non mi interessa, potevano essere. Beh, alla fine sono scesi, il treno era diretto Roma-Milano, sono scesi, i poliziotti li hanno presi, li hanno prelevati, a un certo punto ho chiesto al poliziotto, scusi, ma cosa succede a questi signori? Sì, vabbè, fanno una denuncia, eccetera, fra un'ora sono già tranquilli. Dice, questi hanno fatto il viaggio a Roma Milano senza un euro, eccetera. Magari non hanno manco i. Perché sanno che non gli fanno niente. E non fanno niente, non succede nulla. Per cui di che stiamo parlando? Invece se li prendevano, sei messi in galera. No, ma innanzitutto se non sei regolare ti dovrebbero cacciare il giorno dopo, mettere su un aereo e portare via. Giorno dopo, dopo che hai fatto una puttanata del genere. Ma i cittadini europei, dove vuoi mandarli? Scusa, non capisco. Ma non mi ricordo dove erano. No, non erano europei. Non sento niente, Parenzo, migliora le cose. Dopo il cocktail, migliora il collegamento. Massimo da Padova, Massimo. Buonasera, sono Massimo. Dimmi Massimo. Niente, a proposito dei Rom, io vorrei chiedere a Parenzo che cosa portano i Rom nel nostro paese. Cioè, nel nostro paese portano immondizia, come ha detto la Marina Ripa di Veana, non portano nient'altro. Hanno rubato a casa mia due volte, mi hanno aperto la macchina. Cioè, io non ne ho trovato uno di sano. Non ne ho trovato uno. Mettono bambini a far cose che i bambini dovrebbero fare ben altro. Mettono, cioè, sono sporchi. Ma guarda, non si lavano. Cioè, che cosa portano i Rom? Beh, di questo conosco anche tanti italiani che non si lavano per quello, ma non è questa la questione. Allora, ci aggiungiamo anche i Rom. Ci sono tanti altri in Italia, aggiungiamo anche i Rom. Vabbè, ma questo allora, non c'è, non è questione di aggiungere, non è questione di aggiungere. Insomma, allora togliamoceli dalle palle, sti robe. È evidente no? Che lì dentro c'è una specializzazione, particolare, che è quella al vivere per usare una parola leggera, al vivere di puri espedienti, diciamo, no? Per non dire. Poi non voglio essere querelato dai signori magari di nazione rom o dai signori che rappresentano i sinti in Italia, perché altrimenti se tu dici che c'è un tasso di furti elevato all'interno del comune, quindi capace che ti portano in galera, ti portano in tribunale. Sì, cioè. Tu paghi e loro no, perché è chiaro che se io evado o faccio qualcosa a me mi prendono, perché tanto sanno che posso pagare, perché ho Scusami, è una questione non soltanto di polizia, che capisco, ma è anche una questione politica, però, perché siccome questi campi nomadi sappiamo in tutte le città dove sono, cioè non è che sono clandestini, sono la luce del sole, in tutte le città d'Italia sappiamo esattamente... No, sono clandestini. Sono clandestini alla luce del sole. Sì, portateli, vabbè, fate una retata adesso, cominciare domani mattina, fai una retata a Triboriano alle 6 del mattino, ti svegli, vai con i poliziotti, fate la retata e li portate via. Fate così, basta, dai, va bene, benissimo. Sono con voi, avanti, domattina alle 6, raccontami della retata che hai fatto da via Triboriano a Milano, a Roma. Ma vuoi stare zitto un attimo che abbiamo un ospite? Fatelo, avanti. Vi voglio benissimo, viva la topa! Oh, è con noi, grande ritorno alla Zanzara, Daniela Santanchè, buonasera! Buonasera a lei, a Parenzo! Come andiamo? Ciao, allora, io cara. Mi sono arrabbiato oggi. Sono pronto a fare? No, mi sono arrabbiato, Daniela, mi sono arrabbiato per una cosa molto semplice. Tu lo so che sei comprensiva nei confronti di Parenzo, sei comprensiva, però mi sono arrabbiato perché... Sì, no, no, aspetta, ha fatto una cosa tremenda. Tu lo hai visto una volta, com'era al parco, no? Col passeggino. Ai giardinetti. Allora, è successa una cosa molto semplice, che lui mi ha detto, sai, c'è l'orario migliore per il bambino al mare, e fino alle 6:30 di sera. Io ho detto, caro David, però alle 6:30 inizia una trasmissione, tu comunque devi lavorare, cioè, però sai, cioè, alla fine devo rimanere al mare fino alle 6:30. Dunque lui si è messo in collegamento dalla macchina in maniera fortunosa, rumori, cioè io... Ma quando? Allora Daniela, mi devo arrabbiare oppure devo essere comprensivo? Cioè, dammi un suggerimento, tu che sei, come dire, comunque capisci queste cose. Io non capisco la gestione, non conosco la gestione familiare, giustamente, certo, di Parenzo, quindi io sai che non amo entrare in queste cose qua, entrare nella vita privata. Devo dire, dipende come l'organizzazione della famiglia. Se lui ha una moglie che lavora moltissimo, sì, e che quindi alle 6:30 di sera è in ufficio, deve lavorare, è molto giusto, bene, fa Parenzo, sai, dipende tutto da chi porta i soldi a casa. Eh beh, anche questo è vero, anche questo è vero. E poi una questione no, di ruoli, voglio dire. Non so se Parenzo ha i pantaloni o la gonna. No, io ho la gonna e sono pronto a rivendicare il mio ruolo di mammo, come dice quel senza patria, senza famiglia e senza Dio di Giuciani, tranquillamente. Ma al di là di questo, la sfida che ti lancio, cara Daniela, è due punti. Se tu compri l'unità, io mi dimetto da tutti i lavori. No, questo è interessante, interessante questo. No, io lo dico qua, ve lo prendo come, ecco. Mi dimetto da tutti i lavori che faccio, perché mi portano un discreto reddito, grazie a Dio, e con uno stipendio da metalmeccanico, quindi 1600 euro al mese, sono disposto a guidare il giornale fondato da Antonio Gramsci, quindi a fare il direttore dell'unità. Scusa, per sei però mesi. Ti vorrei ricordare che l'unica volta in cui sei stato direttore di un giornale hanno portato tutto, hanno chiuso. Mi sono dimesso io. Ho capito, però ho finito in bancarotta. In bancarotta. Non, come il clandestino. Come sai, accetto la battuta. Vabbè, comunque la proposta è seria. Cioè, se la Santanchè prende l'unità, vuoi fare il direttore. Il direttore del giornale fa Antonio Gramsci per garantire la linea editoriale a sinistra, perché altrimenti... Questo però non è male questa proposta, vabbè, io per adesso penso all'unità di Forza Italia. Vabbè, sì, però... Mi sembra un tema molto interessante. Quello però mi sembra che... Sì, Berlusconi ha detto una cosa su questo, però non so quanti lo seguiranno in questa storia, o riforme oppure ve ne andate. Beh, sarebbe veramente brutto non lo seguissero, perché nel momento in cui il presidente Berlusconi viene alla riunione dei gruppi congiunti e chiede di fatto la fiducia, dire sono 20 anni e non ve l'ho fatti passare male, adesso vi chiedo di continuare a darvi la fiducia, perché queste riforme le dobbiamo fare... Beh, io la vedo difficile che qualcuno dica no, la fiducia a Berlusconi. Perché è giusto, è giusto che dunque che qualcuno vada via da Forza Italia se non vota la riforma? È giusto che qualcuno qualcuno si ricordi che ha vinto la lotteria senza neanche comprare il biglietto. Adesso Berlusconi non chiede di comprare il biglietto, ma di continuare a avere, come dire, fiducia in quella lotteria che insomma ha dato tante soddisfazioni, sì. Ha dato tante. Per cui uno come Minzolini si deve rendere conto, per esempio, per fare un nome, so che lei i nomi non li vuole fare, ma li faccio io. Uno come Minzolini si deve rendere conto che è lì per nomina berlusconiana, insomma, no? Io non parlo di persone ma di principi. Io dico il principio è che Berlusconi ha chiesto a tutti noi di dargli fiducia. Io credo che questa fiducia va data senza se e senza ma al leader. E se uno dice di no? Ricordo, abbiamo fatto una battaglia pazzesca per dare tutti i poteri nelle mani del presidente Berlusconi, e come se oggi ridiscutessimo il tutto. Ma scusa, e se uno allora dice di no, è giusto che venga espulso oppure no? Cioè va via e deve ritenersi fuori da Forza Italia. Ma a parte che non ho mai visto cacciare nessuno da Berlusconi, quindi farei un po' fatica a crederci che adesso, anche se le devo dire che a me l'altro giorno è piaciuto molto Berlusconi in versione capo, eh? Ah, quando ha mandato a fare in culo la... io quelle parole non le ho sentite. Appena finita la riunione ho dovuto andare perché avevo degli altri impegni. Però le ha dette, secondo tutte le ricostruzioni. Io dico che a me piace che ci sia un capo. Un capo non deve essere, non deve volere, cioè, l'amore di tutti, ma deve essere un passo avanti agli altri. A lei piace dare la mia. Quindi io trovo che per la prima volta l'altro giorno Berlusconi ha fatto il capo. Ma come per la prima volta? Va a merito di Berlusconi. Per la prima volta dopo tanto tempo, dice lei, dopo un po' di tempo. No, perché Berlusconi ha modi altri. Adesso il momento è difficile, direi che ci vogliono anche i vaffa. Possiamo dire che ci vogliono anche i vaffa? Vuole un po' di fermezza, eh? Noi siamo sempre stato un movimento anarchico e monarchico nello stesso tempo, d'acciaio. Un po' meno anarchico. Capito? Però io vorrei tornare a me Berlusconi capo nell'esercizio della decisione mi è piaciuto molto. Capito? Però scusami, va bene, ma questo mi interessa, mi annoia da morire questa roba. Sì, è un po' noioso, Voglio sapere dalla compagna Daniela, perché questo è interessante invece, questa roba qui. No, lo sai io che cosa vorrei? Quante magliette di Che Guevara hai innanzitutto? Perché ho visto uno stupendo fotomontaggio. Io voglio Daniela Santanchè un giorno gira, questo sarebbe una grandissima cosa pubblicitaria, gira per Milano, adesso che si possono portare le magliette sotto le giacche, con una bella maglietta del Che. Ma lei ce l'ha una maglietta? Non capiterà mai. Perché? Perché mai? Perché non ce l'ho, non mi interessa. Cioè, non è, considera Che Guevara... Cosa vado in giro con la maglietta, non so, della Thatcher? Non mi verrebbe. Beh, quello sarebbe... Però Che Guevara lei lo considera una sorta di Reagan? No, non... Che Guevara lo considera un pezzente? Non considero niente nessuno, nel senso che trovo come politico giusto, sono qua con voi, fate una trasmissione meravigliosa, un conto politico, un conto un imprenditore. Vabbè, però due domande dell'Unione di Forza Italia, se la trasmissione io non c'ho niente da dire. No, vabbè, però due domande da comunicare. È politica, però anche questa è politica. È onorevole Santanchè, su, non è che non è politica questa cosa qua, è estremamente politica. È politica l'acquisizione di un giornale che si chiama Unità, la possibile acquisizione di un giornale che si chiama L'Unità da parte. Io sono favorevolissimo. L'altro giorno ho detto, ragazzi, ma qui non è che potete rimanere a piedi. Se c'è una proposta seria imprenditoriale che viene dalla signora Santanchè, dalla signora Ferrari, bisogna prendere in considerazione. Non potete fare come hanno fatto i giornalisti dell'Unità, gli schizzinosi, e chiedendo i soldi pubblici, chiedendo soldi a Renzi o l'intervento dello Stato. Bisogna accettare quello che c'è. Se la proposta è buona, bisogna accettarla. Voglio dirlo a Daniela con una battuta. Non sono schizzinosa. Nella mia vita ho mangiato tanto filo spinato. Non trovo che i soldi hanno un colore, che le idee imprenditoriali hanno un colore politico. Allora, nella vita chi fa impresa vuole creare ricchezza, vuole avere successo. E quindi voglio dire, tutto questo non vedo. Se lei prende l'Unità, una cosa sola, se lei prende l'Unità, resta un giornale di sinistra? Resterà un giornale di sinistra o no? Io non parlo. Allora ragazzi, io non vi ho fatto ancora sentire una perla assoluta, è venuta fuori dalla trasmissione Millennium su Rai 3, il mitologico Scilipoti, caro Parenzo, caro onorevole Santanchè, Scilipoti che addirittura medita di tradire ancora, questa volta Berlusconi, capito? Cioè dice, se non sarà, emendamenti, pronto a rifare come il 14 dicembre, sentiamo. Allora oggi sono orgoglioso di dire ciò che penso e di ribadire ciò che ho fatto il 14 dicembre e per rifarlo oggi, turandomi forse il naso e con grande amarezza, potrei anche optare per fare una scelta di sostenere questa riforma, ma se questi suggerimenti o gli emendamenti presentati non saranno accettati da questa maggioranza, sarò costretto a prendere una posizione con grande orgoglio. Zanzare. Sofia, Sofia. Una parolina, David, ti prego, una parolina, ti prego, una parolina. Siete voi, tu, gli amici del centrodestra, la mia Danielina, voi che avete titillato, sostenuto il signor Scilipoti. Vabbè, ma che c'entra adesso? È un esempio, e Scilipoti. Allora, di che cosa volete? Scilipoti è Scilipoti, fa Scilipoti. Di che cosa c'è di cosa c'è da dire? Vabbè, aspetta questa è cosa qui. Stato così. Senti questa cosa non qui. Non c'è nessuno scandalo. Senti quest'altra così. Cosa qui. È un opportunista. Senti questa cosa qui. Senti quest'altra cosa. È avvicinato da una giornalista che parla di quelli che non pagano le quote dentro Forza Italia. Sì. Non pagano le quote al partito. Devo dire la verità, un po' me ne frego di questa vicenda. Se uno non paga le quote del partito, saranno affari di quel partito, cioè non è che non paga. È vero che l'immagine di un politico che all'interno di una comunità dovrebbe dare dei soldi e poi non li dà, non è una grande immagine. Scilipoti è uno di quelli che sono morosi. Sentiamo come risponde. Lei l'ha dati 40.000 euro? Ma non è che dobbiamo dare 40, 50, 60, ognuno di noi darà un proprio contributo. Ma lei li darà? Quanto darà? Quello che ci sarà da fare lo farò come lo fanno tutti. Ma non l'ha fatto però adesso? Ma gliel'ha detto che non l'ho fatto. Ah no, glielo chiedo, l'ha perché fatto? Perché fa delle affermazioni gratuite? Ma che cosa devo fare? Ha versato? A casa mia, dico, lo faccio io quello che devo fare. A lei che cosa interessa che ciò che faccio io? Lei controlli a casa sua cosa fa sua madre, cosa fa suo marito, cosa fa suo figlio, cosa fa suo nipote. Che noi controlliamo quello che facciamo noi, siccome siamo grandi, adulti e vaccinati, sappiamo perfettamente quello che dobbiamo fare. Allora, Santa Kay, che bisogna fare nei confronti di questi qua amorosi? Dovrebbero essere mandati via, dovrebbero pagare domani, perché lei è una di quelle precise, mi sembra, no? Sì, io non devo neanche un euro, ma sa, ogni situazione è una storia a sé, però voglio dire, è certo che bisogna versare quello che sono i contributi, anche perché abbiamo voluto abolire il finanziamento pubblico al partito e quindi adesso la storia è un po' diversa, però ripeto, ogni storia è a sé, bisogna vedere, magari chi non ha pagato i contributi paga la sede nella propria città del nostro movimento politico, io non mi occupo del recupero crediti. Beh, come no? No, recupero crediti. Ah no, di trovare i soldi, dicono che lei non ha preso, non ha trovato un euro per Forza Italia, qualcuno dice. Vabbè, ma io non cado mai nel pettegolezzo. Vabbè, pettegolezzo. Che dimostrano, ma io non. E quanti soldi ha portato fino adesso? Quanti soldi ha portato fino adesso? Ma guarda, abbiamo fatto parecchie cene, l'ultima cena per dire a Villa Gernetto che avevamo fatto, l'ultima cifra era 220.000 euro tolte tutte le spese. Ne avevamo ma quanti in concreto, l'attività di fundraising, di trovare i soldi, che cosa ha portato da parte di Daniela Santacchia a Forza Italia, che ha portato concretamente? No, guardi, adesso concretamente non ha portato... Niente, zero euro? No, come le sto dicendo, l'ultima cena 220.000 euro. In tutto, quanti spese. Soldi ha portato? Più o meno? No, poi non è che la faccio soltanto io, perché ogni coordinatore fa delle altre cose, d'accordo, quindi ma... voglio dire sicuramente sono entrati dei soldi, non sono sufficienti. Adesso mi sembra molto positivo il fatto che... Ma non sa una cifra, che ne so, ha portato a Forza Italia in tutto? No, questa una cifra poi sarà messa e quindi, siccome siamo assolutamente trasparenti, sarà sul nostro sito di Forza Italia, ognuno di noi potrà andare a vedere. Abbiamo anche la campagna, voglio dire, di adesioni, che mi sembra quella molto importante, perché adesso sono aperte il tesseramento, quindi vedremo. Tutti quelli che vorranno potranno iscriversi al nostro Parenzo, movimento politico. Vogliamo far dire qualche cosa sulla signora, su quello che è stato, voglio dire, la settimana scorsa un po' il clou della nostra trasmissione? No, cioè vorrei prima che lei facesse gli auguri di buon compleanno alla signora Pascale, questo anzitutto vorrei questo è giusto. Che Danielina, così per io la chiamo Danielina perché è il mio editore ormai, che Danielina facesse subito gli auguri. Ah, io vengo in redazione col bambino, All'unità, si può andare all'unità, si potrà andare, sì, sicuramente. Bambino, certo, siete tutti da sinistra voi, figuriamo. Ma scherzi, mica è il gulag. Ma lei, se dovesse, si immagini editore dell'unità, facciamo un gioco. Chi metterebbe direttore? No, direttore. Non mi immagino proprio niente, mi posso immaginare editore dei giornali che ho. di CIAC, di Villa Giardini, di PC Professionale, che sono l'editore dei miei giornali. Ecco, Cruciani a dirigere Villa Giardini. Sarebbe interessante chiedere ai direttori dei giornali miei, come Daniela Santa, anche come editore. Sì, alcuni hanno detto che lei non si intromette, eccetera. La signora, per esempio, De Tassis ha detto questo, eccetera. Però è anche vero che non sono giornali politici questi qua. Allora, io voglio dire una cosa. Come può fugare... Non sono nemmeno direttori, voglio dire, che appartengono forse come pensiero... Al centrodestra, no. Al mio pensiero non c'è dubbio. Politico. No, ma questo è vero, ma questo non c'è dubbio. Però, non mi interessa. Però io voglio dire una cosa. Non faccio una distinzione di appartenenza quando uno... Siccome quelli dell'Unità hanno parlato di pitonesse, cioè, insomma, sono molto ostili nei suoi confronti, vuole dire qualcosa a quelli che lavorano all'Unità, no, per fugare i dubbi? Non ho niente da dire. Mi auguro per loro che finalmente le verrà pagato lo stipendio, mi auguro per loro che riescono a fare un grande giornale. L'Unità è un grande giornale con una storia molto importante, per cui io le faccio i migliori auguri perché possono... Non sono vostra nemica, dici? Non sono vostra nemica. Se prendo il giornale non sarò vostra nemica, cioè voglio che... Guardi, combatterò tutta la vita per chi la pensa diversamente da me possa continuare a pensarla diversamente. Per cui... L'unica cosa nella vita che mi fa paura, guardi, è il pensiero unico. Io sono per la politica delle differenze, appunto, anche perché è meglio confrontarsi, poi c'è chi può cambiare idea o può rafforzare le proprie convinzioni, ma io non ho mai paura. Cioè l'Unità, se io prendo l'Unità... Non ho paura del confronto. No, certo, dico, è assurdo. No, questo in principio generale. Non ho paura del confronto. Però se uno prende l'Unità, uno vuole che resti un giornale di sinistra, sarebbe assurdo che non resti un giornale di sinistra, o sbaglio? Però io voglio dire, io ripeto, potete parlare voi all'infinito, questo è un argomento che non ho niente da dire, sto parlando di principi in linea generale, principi come linea editore, generale, certo. E io credo che come editore i miei direttori possono testimoniare che per pudore non entro nemmeno nella redazione. Per cui all'Unità non entrerebbe manco in redazione. Benissimo, questo è perfetto. Ma questo lo dice lei, che lei lo dica. Allora, signora Crudelia De Mon, ma lei dà fastidio il fatto che la Pascale l'abbia soprannominata Crudelia De Mon? Assolutamente no, perché era fatto negli Sgommati, voglio dire, vi ricordate? Io ero così rappresentata, quindi assolutamente una cosa che era già nota e conosciuta, come la pitonessa, come Crudelia De Nonno. Però lei ha detto qualcosa in senso un po' negativo, diciamo la verità, cioè, l'ha detto. Ma io non trovo, ripeto, ognuno esprime giudizi, opinioni, cose, ognuno è libero di esprimerle. Certo. Anche Cecchipone, anche Cecchipone che ha detto che lei è cattiva. Ma ci mancherebbe altro, poi voglio dire, chi ci ascolta farà le proprie valutazioni. Ma Cecchipone poi, quando guarda, è di Forza Italia oppure no? Perché è strano, prima non era di Forza Italia Cecchipone, a un certo punto era pure diventato abbastanza anti-berlusconiano, o no? E poi voglio dire, vede, si torna tutti all'ovile. Si torna tutti all'ovile, Esatto. Ma come mai ha trovato questa amicizia con la signora Pascale? Poi dice che in Forza Italia ci sono almeno 10 gay... Dice delle cose incredibili. Ma questo non sarebbe una cosa discreditante per Forza Italia, ci mancherebbe altro. No, ma non è che l'appartenenza a un movimento politico è una discriminazione sessuale o razziale. No, ci mancherebbe lui altro. Dice che non fanno coming out, però comunque ce ne sono una decina dentro Forza Italia. Questo è un problema personale, se uno vuole fare coming out non lo fa. Ma le danno fastidio queste cose, dice Chipone, danno un po' fastidio quando lui dice la santa. Ma nella vita non mi dà fastidio niente, le posso dire, anche perché voglio dire, ho le spalle molto larghe, ripeto, sono una persona che ha già vissuto abbastanza per capire come funziona la vita, per cui non cioè, mi fanno anche sorridere. Le fanno sorridere, le fanno sorridere. Ma se, però diciamo la verità, Parenzo, la linea un po' su alcune cose, Parenzo, dentro Forza Italia, su questa cosa dei gay ma io posso dire la mia opinione, io sono contraria ai matrimoni tra omosessuali, sono fortemente contraria che alle adozioni perché trovo che bisognerebbe chiedere a un bambino se è contento, sono assolutamente convinta che i diritti devono essere uguali per tutti. Ma non capito, se un bambino cresce tra due uomini, lei proprio le dà proprio fastidio l'idea, che cosa c'è di strano? No, non dà nessun fastidio, le ripeto, non c'è niente che mi dà fastidio, non ho nessuna certezza da questo punto di vista, ho moltissimi dubbi come mamma, perché poi nella vita uno, perché capisce, noi non chiediamo un terzo, cioè noi non chiediamo un bambino perché non abbiamo strumenti per poterlo capire, per poter chiedere se è contento o non è contento, non so nemmeno giudicare e quindi non lo so, mi sembra che ci sono delle questioni che sono naturali, che non ci sono delle leggi che possono sovvertire ciò che è al di sopra di noi. Poi se vogliamo distruggere tutte le barriere della famiglia, ma no, distruggere allora io le chiedo, ma perché no la poligamia? Vabbè. Cosa c'è di male che un uomo abbia 5 mogli? Vabbè, ma non può, mi può paragonare l'adozione homosex alla poligamia. No, lei ha detto pure all'unione tra gli animali, paragone. Tra uomo e animale. Non è la stessa io cosa. Ho detto, tra no, uomini. Ma l'ha detto in un'altra occasione, non mi ricordo. Cioè, allora perché non l'unione tra un uomo e un animale? Perché non no, la poligamia? Io non ho mai detto questo. Vabbè, no, ma dico, ma perché? Qual è il cioè, che cos'è che è sbagliato per voi? Vabbè, la poligamia è una, ma la poligamia perché? È un'altra cosa rispetto all'adozione. Alcuni paesi moderni occidentali hanno l'adozione omosessuale e non la poligamia. Gli uomini spesso, voglio dire, avete una moglie, due, tre amanti, quindi non vabbè, è ma avere gli amanti non è mica, non vorrebbe mica reintrodurre il radio. Ma magari lei le vorrebbe sposare, io non lo io so, no, io sono ma no. Contraria, io trovo che la famiglia va preservata. Ho capito che vogliamo reintrodurre il reato sembra... di adulterio, scusi. Ma, ci, ma le facevo una provocazione, se poi non capisce la provocazione no, capito, che dicevo, ecco. Capito, ci mancherebbe no. Che una come me possa essere a favore della poligamia. Io rimango, le ripeto, perché non si abbattono tutte le barriere che la famiglia. Io sono per il poliamore. Io sono per io sono per il poliamore. Ma quello non ha bisogno di legge. Lo sa che l'ex editore, uno degli attuali azionisti dell'Unità che abbiamo avuto la settimana scorsa qui, che si chiama Mian, Maurizio Mian, che ha detto che è favorevolissimo al fatto che lei prenda l'Unità, ora. Eccetera. Signor Mian, 20% dell'Unità, lei lo sa bene perché avrà visto i conti dell'Unità e dunque sa anche che questo signore possiede credo il 18-20% è a favore del poliamore, cioè nel senso di, delle famiglie aperte. Dove, no, ma veramente è così, un personaggio straordinario. Vabbè, voglio dire, ognuno ha le proprie idee. Io sono invece per la fedeltà, per le famiglie chiuse. Che noia perché... la fedeltà, che noia. Invece, per me invece un valore, che perché guarda che è una cosa molto bella invece, che bisognerebbe sì. Di nuovo insegnare. La fedeltà. È molto più bello dire di no che dire di sì. Sì, io so, abbiamo... sono d'accordo con l'editore. Pensa con l'editore come siete, siete, ma... siete tornati indietro non so di quanti anni. Cosa c'è di più bello della fedeltà? No, c'è la fedeltà di più bello? Ma sì, ma come no, a voglia. Che Cruciani quando si ritroverà da solo a 70 anni dicendo traffico, traffico con la dentiera e il catetere solo in questa casa con un microfono dice ma dove dipenderà da quanti soldi avrà fatto nella sua vita e se ne ha fatti avrà molti non sarà badante, da solo qualche badante che ovviamente tutti i soldi che ha fatto avrà qualche badante qualche una rom che sarà diventata la sua badante e niente gli cambierà ma lei il catetere a lei darebbe il cognome questa storia del cognome nome su cui si discute. È importante. Cioè, è importante. Io sono, devo dire la verità, in Parlamento discutono di cose assurde, di no, cose assurde e si dividono no. Su cose assurde, cioè quella del cognome dei figli, mentre basterebbe. Ma non è una cosa assurda, Ma come no, no? Questo è importante. Ma che importante, ragazzi, su, ma non no, dite. Sono d'accordo che non è di un'importanza primaria, perché i problemi degli certo. Italiani sono altri. Vabbè, certo. Quindi però se lei mi mette nelle priorità non è una priorità. Il cognome però è quello del padre, punto, è quello del padre. Basta. Che spesso parlate dell'Europa e cioè l'Europa c'è già vabbè, sì. Cioè voglio dire dobbiamo recepire perché non è che recepiamo, no ma che male che cosa c'è che si aggiunge il cognome della madre ma no anzi, ma si può aggiungere dire, se... la verità dovrebbe essere primario quello della madre che è sempre certa il padre molto spesso poi si scopre che non lo è vabbè non vero. Esageriamo adesso molte no, volte sì. Se vogliamo dire le cose come sono questo, ma infatti è proprio per questo che si fa il riconoscimento ma infatti proprio per questo che il padre dà il nome proprio perché vabbè. Ci vuol mettere il ragazzi io vi saluto sopra. C'ho la pubblicità avete c'ho... ragione da questo punto di vista viva la pubblicità viva l'unità possiamo dire viva l'unità di Forza Italia no viva l'unità diciamo viva l'unità bellissimo viva l'unità è bello viva l'unità di Forza no, Italia del giornale se lei dice così no inizia male non voi. È che può io fare la sottotestata unità di Forza Italia viva l'unità viva Antonio Gramsci viva Antonio Gramsci cantiamo una bella canzone no cantiamo una bella canzone la canzone della Terza Internazionale che ne so avanti l'inter... ma no allora sarebbe più facile bella ciao mi piace di più dai andiamo no, facciamo una bella ciao aspetta bella ciao è buonissima no, bella... no, aspetta ma l'intonerei così ho visibilia anziché una mattina ho visibilia mi sono svegliato ho Danielina e ho comprato l'unità e ho comprato l'unità io finirei invece così lotta di lunga durata lotta di popolo armata una lotta dura senza paura. Vi piace più questa? Beh, bellissima. Bellissima. Questa che cos'è, Parenzo? Tu che sai questa era canzone? Era l'inno di lotta continua, straordinario. Ma invece non sono stata trattata. Bella ciao. Parenzo, vediamo un po' se un po', Parenzo, non se lo aspettava. Non se l'aspettava. Bella ciao, ce l'abbiamo? Perché faceva così. Allora lotta di lunga durata. Aspetta, questa è la parte migliore. Lotta di popolo armata. Lotta continua sarà una lotta dura senza paura finché il padrone vivrà. Vede che sono meglio di lei. È meglio di molti redattori dell'Unità, secondo me. Allora sentiamo un po' Bella ciao, se c'è Bella ciao. Anche questo. Vediamo un attimo. C'è Bella ciao o no? Vai. Me la canto io. Vai, vai. Vai, vai. Santa Che. Onorevole Santa Che? Andiamo? Forza Italia. No, anzi, bella. Ma so tutta. Bella ciao, vai. Ma so il ritornello, cantate la voce. Qual è il ritornello? Ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. Na, na, na, na, na. Siamo scarsini, Io chiuderei in un altro modo. Cioè come? Fratelli di vabbè, Italia, ma che c'è? Quello è scontato. Vabbè, ho capito. Se testa dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria è meglio quella di lotta continua, però porga la chioma che schiava di Roma, Iddio la creò. È stonatissima, stonatissima, una cosa pazzesca. Però vi ha dimostrato che sulle canzoni anche sulle canzoni di sinistra, sinistra sono solo queste, sai, qualcosa di Guccini, no, Guccini tante altre, di sinistra, di sinistra. Insomma, sono stonata. Per esempio Guccini com'è? No, Guccini com'è? Che così solletichiamo gli amici di sinistra dell'Unità. Sono preparata, purtroppo una voce che non Parenzo, una storica di sinistra qual è? Una storica di sinistra potrebbe essere, vabbè, quella famosa di Paolo Pietrangeli, no? Cioè? Che roba, vale. Contessa, l'industria di Aldo han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, dicevano pensi di essere sfruttati, qui è bellissimo, e quando è arrivata questa non la, la polizia, quei quattro straccioni hanno gridato più forte, di sangue hanno sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire, qui tutti insieme, compagni dai campi ritornello. Prendete la falce, prendete il martello, scendete giù in piazza e qui picchiate con quello. E qual è un'altra? È quella, un'altra che sa qual è? Un'altra che sa? Una che sa? Stavo pensando una canzone di Guccini che mi qual venga è? In mente. Potremmo fare l'inno di potere operaio. Qual è? Ma non lo conosco. Ba-ra-ba-bam, ba-bam. Potere operaio, le bombe sui treni, le bombe sui vagoni, le mettono. Ma non i la fascisti, sa questa. Le pagano i padroni. Ma io voglio dire, vi ho già cantato. Ma Guccini, voglio sapere Guccini, un passaggio di Guccini. Non mi veniva in mente una canzone di Guccini, ci sto pensando, ma ne so tante. Perché poi canto solo da sola, perché sono talmente stonata che quando canto insieme a qualcuno. Con la borsa finta? Con le borse finte? Con le borse finte canta magari, no? Con una borsa finta. Ma io sai che sono molto amica dei marocchini, è noto. E i Rom? È amica pure dei Rom, no? Di quelli che sono qua nel nostro paese lavorano, non certo quelli che rubano. Ma quante borse finte ha? Per esempio, quante borse ha? Ma guarda, io voglio dire, sono tutta finta. C'ho anche una maglia con scritto 100% di plastica. Quindi voglio dire, per me la plastica è un materiale molto pregiato perché non si deteriora, perché non inquina. Sì. E quindi voglio dire, io sono assolutamente. Ma perché la Pascale si è uscita con questa cosa delle borse finte, le borse taroccate? Non lo so, avrà avuto le sue ragioni. È cattiva lei? Ma perché voglio dire? Ma perché? Vabbè, è una cosa, un'accusa un po' anche, no? Quella c'ha le borse taroccate, così, una cosa. Ve la faccio cantare questa canzone che trovo bellissima di Guccini. Aspetti che se riesco a alzare il. Qual è? No, ma che la canti lei però? No. Hai la dolce illusione di essere solo. La dolce illusione di essere solo, la canzone di notte, che è una canzone per me meravigliosa. E come fa? Come fa? La come canta fa? Con Sallusti la sera? Scusi? La canta con Sallusti? No, quando penso a Parenzo. Che la vede lì con la culla, il bambino, e dico, ma chissà se farà del sesso e tutto preso a fare il mammo. No, o se la fidanzata lo troverà ancora sexy, quando lo vede col grembiulino che asciuga i piatti o cambia il pannolino. Però non mi stimoli su questo, perché io dico, ma lei piace fare l'amore con le canzoni? Così? Le piace fare sesso con le canzoni? Ma secondo lei io parlo con lei di queste robe qua? E allora perché poi lo dice a Parenzo? Non dorme più per le prossime sette notti. Perché non lo dice a Parenzo? Vorrei diventare, voglio dire, il suo, come dire, incubo. Sogno, capito? No, ma quello, no. A quello ogni incubo sono anche le altre. Guardi, io però non le voglio parlare di questo, perché poi dopo lei capisce che avrebbe dei giorni tristi. Ma che ne sa che io già non faccio dei sogni? Ma io le dico che poi sarebbe così triste se io potessi raccontare. Però siccome le voglio bene, Cruciani, non voglio che lei poi sia un uomo che dice, ma che cosa ho fatto sino adesso? Ah, nel senso. E allora preferisco, lei, sì. Capito, lasciar perdere. È vero, è vero. A presto. È molto meglio l'attesa della presa, voi maschi ricordatevelo sempre. Beh, insomma, ogni tanto pure la presa, ogni tanto pure la presa non e è male. Io dico alle donne, fatevi attendere, è cioè, meglio l'attesa una che della si, presa. Una ragazza che si mette uno, quanto deve aspettare prima di dargliela, più o meno? Sei mesi? Il gioco erotico della seduzione, sei di mesi. Tutto, ormai voglio dire tutto così. Ma secondo lei quanto? Un mese? Forse mangiato, ma magari anche tutta una vita. No, vabbè, sì, ma siamo un po' romantici. A dai. Presto, ciao ciao. Grazie. Ciao. Ottima trasmissione, sempre la visione. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la... Io adesso sto andando a mangiarmi due tagli e fagioli lì al Melograno sotto Miglianico. Mi ha beccato, mi ha beccato. Allora, cosa vi faccio sentire? Vi faccio sentire un meraviglioso Domenico De Masi, sociologo napoletano, il quale parla così innanzitutto del sindaco. Una volta a polpaccio e poi all'altro una botta nel braccio. Lasciamo perdere il sindaco, dai. I napoletani sono artisti del sottosviluppo come Michelangelo. No, no, sono semplicemente dei grandi artisti del sottosviluppo. Diciamo, come Michelangelo faceva statue, i napoletani fanno sottosviluppo. Città di Napoli, malato terminale. Ma la città com'è? Al disastro la città com'è? Ma è un malato terminale. Che le più volte non lo vedi mai. Napoli non si salva nemmeno con Roosevelt, De Gaulle, tutti insieme. Ma guardi, Napoli se avesse come sindaco un triunvirato fatto da Churchill, da De Gaulle e da Roosevelt, manco ce la farebbero. Si figuri con De Magistris. Ma si è buttata via. Napoli sopravvive grazie a Camorra e Nero, sempre De Masi. È una città che consuma più di quanto produce, però sopravvive, come mai? È il complemento accento e la Camorra e Nero, se niente da fare. E da sempre ci ho provato, ti ho inseguita. Poi ha detto anche che i napoletani vogliono avere sottosviluppo, sono come i Tuareg. Sentiamo questa cosa, come i Tuareg. Ma non c'è niente da fare. Perché noi napoletani siamo come i Tuareg, diceva Pasolini, e ci lasciamo morire. Va bene, dai, Alessandro da Roma. Alessandro? Niente, sì, vabbè. Sì, mi senti? Dai, forza, su. No, volevo fare una domanda io a Parenzo. Sì, dimmi. Eccomi, per quanto riguarda i rom, una cosa velocissima. Allora, io volevo chiedere una cosa, no? Allora, a me mi è sparito il SUV, la macchina, no? E dov'è che l'hanno trovata? Nel San Campo Rom, con l'antifurto satellitare. Tutta smontata. Ma non è tanto questo. La domanda che volevo fare era questa. Io c'ho il SUV, no? C'ho la macchina, ma hanno fatto tre accertamenti induttivi al Guardia di Finanza. Sì, vabbè, poi... Mi fermavano. No, scusa un attimo, ti spiego e poi chiudo. Mi hanno fatto tre accertamenti, mi fermavano e vedevo che scrivevano e gli domandavo, scusa la cosa, ma perché sta a scrivere? Che ho fatto? C'ho la cintura, c'ho tutto. No, noi andremo a verificare se lei si può permettere questa macchina. Sì. Giusto, ma io dichiaro più di 200.000 euro l'anno sul modello unico, per cui sto a posto, non è mai successo niente. Perché mi stai raccontando sta cosa? Scusami. Ecco, adesso ci arrivo. Sì. Io vedo i campi rom di via Aurelia a Roma, ci passo davanti e vedo questi che vivono dentro le roulotte e c'hanno fuori dei SUV da 80.000 euro, 70.000 euro, 70.000 euro, 80.000 euro. A me Parenzo mi deve spiegare come cazzo fanno a vesceli, ma ti devo come spiegare fanno io a pagarli, a mantenerli, ma... me lo spiegasse come fanno, ma che lui li prende sempre. Guarda che forse c'è un piccolo equivoco, perché io non difendo i criminali, cioè c'è un piccolo equivoco. Io dico, se quei campi sono lì, tu sai dove sono, ti do del tu, perché io stesso che abito a Roma, ho vissuto 10 anni. Vabbè, allora dai, forza, dai. Vabbè, basta, ciao. No, ma allora dimmi, non, ma se fai tutte delle interruzioni, le cose, sono le 20:28. Ma sai dove sono i campi? Ma diteglielo alla polizia, perché non ci vai, non smantella tutto? Perché i comuni li tengono in piedi? Ma di chi è la colpa, scusami? Dei rom che stanno lì o di chi non trova soluzioni per questi campi? No, perché poi quando si vogliono smantellare i campi, si vogliono smantellare i campi. Ma non è vero, ma non è vero, perché quando hanno fatto alcuni esperimenti in alcune città di smantellare i campi e inserire i, e adesso qui chiamerà qualcuno, vuoi dare le case popolari ai rom? Ma a San Babila devono andare, ecco, nei quartieri, ai Parioli. I rom non devono andare nei quartieri popolari, i rom vanno messi in alcune case ai Parioli, ad esempio. Bellissimo, perché tu metti i rom nelle case popolari, sì, è chiaro che succede che già lì c'è povertà. Ma non ci vogliono andare, no, questo è il punto. Voglio vedere io. Va bene, Cristina, provincia di Firenze, dai, Cristina, provincia di Firenze. Pronto? Dimmi, dimmi Cristina. Ciao caro. Senti, ti volevo dire, prima di dire quello che volevo dire, che se hai bisogno di una badante, io ho già lasciato i miei dati e quindi niente, io guarda, so far tutto, benissimo, ti terrei pulitissimo. Ho capito, però amica mia, tu sei a Firenze, tu, in provincia di Firenze. Ma come? Tesoro, ma io mi sposto, vengo a casa del cliente, non ti preoccupare, ho sentito anche le mie amiche nell'attesa, sono tutte disponibili. Addirittura? Te rimbambisci presto e si arriva a noi, capito? Sì, quante siete? Te pensa a rimbambire, poi il resto... Ma rimbambire che vuol dire, rimbambire? Rimbambire vuol dire rincoglionire, dai. Cioè, cani, pensa a rimbambire, non so, come espressione, che vuol dire, pensa a rimbambire? No, a rincoglionare, dire... rintronarti, essere non capace di intendere, di volere. Ah, tu dici, sì, per cui... ma no, ma scusi, io voglio essere capace di intendere, di volere e di fare, soprattutto. Ho capito, ma prima o poi arrivo anche per te. Capita. Ho capito, ma a voi che vi interessa di fare da badante a me che sono rincoglionito, ma magari pure impotente, scusami, Cristina. Vabbè, ma non si fa mica per sesso, si fa per te, si fa per quello che eri. Vabbè, ma scusa, ma questa è una cosa tremenda, cioè tu vuoi fare da badante a me, ma quando sono rincoglionito, è una cosa agghiacciante. Ma è una cosa Cruciani, bella ma non Cruciani, non t'ho detto domani, t'ho detto fra 20 anni. Ma non voglio, ma non voglio pensare a queste cose tremende. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Comunque ragazzi, diciamo la verità, la notizia fondamentale di oggi, caro Parenzo, è solo una. È il compleanno di mia mamma, peraltro. Sì, d'accordo, ma quella fondamentale è l'arresto di questo sacerdote, l'arresto di questo sacerdote, un sacerdote vicino di Stresa, il parroco di Stresa, era un coca party a Milano, sì, con alcune trans. Senti qua, a un coca party a Milano con alcune trans, gonfio di cocaina, e vabbè, questo qua dice è un prete deviato, uno che si voleva divertire con la cocaina. No, perché questo sacerdote racconta che tutti i suoi guai sono iniziati quando? Sono iniziati quando è entrato in depressione dopo una condanna per truffa, per aver derubato una vecchietta praticamente di 22.000 euro, cioè una cosa pazzesca, cioè la chiesa l'aveva semplicemente spostato. Ora ragazzi, ma qui la vera casta, una delle caste, sono pure sti preti, cioè è quando si fanno i ragazzini, non li si limitano a spostarli e non li denunciano, quando truffano le vecchiette li spostano e questi si fanno di cocaina, è una cosa pazzesca, dai. Beh, c'è da dire che il nuovo Santo Padre qualcosa sta facendo, però. Ma che c'entra? Cose, Non sta facendo, che vuol dire? Cioè, la riforma, sta facendo una bella comunque, riforma. Comunque, la realtà è che la Chiesa è sempre all'avanguardia in queste cose. Arrestato il parroco di Stresa, era un coca party a Milano con alcune trans. Già condannato per truffa un'anziana. Cristina, provincia di Firenze. Allora Cristina, dai. Sì, allora, a parte la mia offerta e spero tu te la segni, allora io ho chiamato per parlare della questione degli ebrei e della Palestina, insomma di Israele. Gli ebrei sono... Un attimo solo, aspetti Cristina, aspetti. C'è una telefonata importante. Pronto? Grillo? Ma chi parla? Sono Cruciani, buonasera. Ma ragazzi, ma cosa volete? Ma cosa state facendo? Che non gliene frega niente a nessuno, c'è il vuoto, è tutto marcio, siamo pieni di macerie, tecnologie morte. Ma la sento molto depressa, molto negativa. Ma non vi rendete conto, entro 10 anni finirà il petrolio, scioglieranno gli acciai e tutta quella povera gente che vi ascolta come dei coglioni. Però scusi, Grillo, adesso si sta parlando di legge elettorale, lei dà l'impressione che non gliene freghi più nulla, vuole delegare tutto a Casaleggio, poi oggi ha detto che... Ma Cruciani, sono stanco. Certo, sono stanco. Allora è vero che è stanco. Sono stanco, sì, non ce la faccio più a venire in quel cazzo di Parlamento, in quel cazzo di città. E poi io sono come Jamé Cascio, tu sai. Ma chi è Jamé Cascio? Che... No, non lo so, onestamente non lo so. Per forza, tu non sei un cazzo. Ma chi è sto Jamé Cascio? Come tutti voi giornalisti. Ma chi è sto Jamé Cascio? Cascio un motivatore. Ma chi motivatore? Io sono un motivatore. No, ma ho capito, ma perché adesso sto Jamé Cascio motivatore? Ma non capite, è tutto inutile. Ma guardatelo, Lebetino di Firenze. Ma no, ma lei non può più chiamarlo. Ha impallato lo stream. Ma non, sì, la pancia che ha impallato. Ma lei non può più parlare di Lebetino di Firenze. Ma ragazzi, Renzi, poi questo, quell'altro, ragazzi, datemi dell'Oxana, dell'Exotan, non ce la faccio più. Vabbè, lo vede che è un po' depresso, Non ce la faccio più, ragazzi. Ha delegato tutto a Casaleggio ormai, vabbè. Sì, Casaleggio, forse Di Maio, sono stanco delle parole, bisogna far saltare il patto del Nazareno. Lo so, però poi lei è stanco. Quelli non hanno il pudore di togliersi dei coglioni e mi deprime tutto. È depresso. Casaleggio mamma, Di Maio non mamma. Casaleggio mamma, Di Maio è depresso. Casaleggio mamma, Di Maio non mamma. È tutto così triste. A domani 18:30. Tecnologia è morte. Sei uno zombie. Lasciate, sfumiamo ragazzi, sfumiamo. A domani 18:30. Zanzara Best, il peggio dell'anno. Antonio Pennacchi, buonasera, come stai? Stavo bene prima di venire qua. È qui solo per un motivo. Certo, no, ma dopo io lo sono diciamo. Venuto solo per, sì. solo per promuovere il per mio fare libro. La marchetta. Di cui non parleremo. Io marzo e me ne vado. Aspetta, perché tutte le fregnacce che me le dici tu, a me non me frega niente. Storia di Karel, lo dico io. Storia di Bompiani. Bompiani. Un libro di fantascienza di Bompiani. Bello, da ridere, divertente. Però parla pure di decrescita, sviluppo. Ma non ce ne frega niente. Ci importa della storia. Cioè, chi è Karel? Karel è uno dei personaggi. È uno che si cimenta per la prima volta con un libro di fantascienza. Quanti soldi ha dato per scriverlo? Quanti soldi hanno dato d'anticipo? 50.000 d'anticipo. Sentimi. A te quanto danno a fine mese? Una robetta. E anche a me una robetta. Anticipo 50.000. Una robetta. 100.000 d'anticipo. Ma fatti cazzi tu. Persona che non ha peli sulla lingua, per questo ci piace, però il tuo Cooper l'ha perso, mo salti sul carro di Renzi. Dai, sei salito pure tu sul carro di Renzi, dai. Ti piace Renzi o no alla fine? Io ho votato Cooper, a me Renzi non piaceva. Però il principio della realtà significa che tu devi prendere atto di quello che è reale. Allora, ma che c'ha che non ti piace? Che continua a non piacerti? Che c'ha? Ma no, è che io vengo da un'altra formazione, una formazione marxista, lui no, però insomma... Speriamo che legga almeno un libro mio. Ma vabbè, quello gliel'hai mandato? No. Sono andato a comprare, di pazienza. però scusa un attimo. Però voglio dire, ci sono dei nodi nel sistema politico che vanno. Perché che cosa non ti piace di Renzi? Io questo, a parte, è fatto dalla cultura, non ti piace il fatto che è un po' berluschino. È di destra? No. Non ti piace? Ma non è che non mi piace, ma mi piace, ha vinto il segretario. È il tuo segretario. In più, ma soprattutto è l'unica carta, l'unico cavallo

Ma che fa quello? Quello si mette a sede 4 ore e tutta lì a penitenza che deve fare? Vabbè, vai in un centro anziani. Anarella, ma tu ti faresti assistere da Berlusconi o no? Tu ti faresti assistere da Berlusconi in un centro anziani? Io? Ma manco morta. Perché, scusa? Per carità. Ma c'è che dia che dà sta pal culo? Che ma ancora sta il giorno della pensione? Dia che dà sta morire ammazzato? 194 euro. Ho lavorato dal 36 al 75. Ha capito sto stronzo? Ma che c'è tra Berlusconi? Da Bettino Craxi che hanno rovinato l'Italia, ma con tempo di guerra stavamo così. Ma è pure i comunisti hanno rovinato l'Italia, dai, mica sono. Che cazzo hanno rovinato i comunisti? Ah, guarda, hanno fatto i fascisti. Vabbè, dai, andare adesso, stai esagerando, su. Insomma, dimmi che vuoi. Berlusconi, volevo capire, se uno va ai servizi sociali, in un centro anziani, mettiamo che tu sei là dentro, che faresti? Sarebbe un calcio là mezzo. Un calcio e mezzo ai coglioni? No. Ma veramente? Cioè quello deve passare quattro. Quello deve passare, sì, ce li ha, quello ce li ha. Ma ce l'ha ancora? Ma io penso di sì che ce li hai, quello. Giovarelli ce l'ha. Beh, io penso di sì che ce li ha. Cioè, adesso 70. C'era due pezzi di pelle. Ma che due pezzi di pelle? Andare, no. Dai, su. Disgraziati. Ciao, ciao cara, ciao, a presto. Ciao amore, ciao. Mio, ci vediamo. Ciao tesoro, ciao. Il piccoletto che passa. Riccardo da Roma. Mamma mia, pagliaccio radical chic, mamma mia, due palle così, ecco. Oh, cioè, prima ecco quella vecchia stronza, mamma mia, ma Cruciani, ma perché la chiami? Perché mi diverte. Per farmi esplodere il fegato quando torno a casa? Perché mi diverte, Ricca, dai. Per farmi esplodere il fegato, babbiona, e mo quel pagliaccio che c'hai a fianco, quel radical chic, così. Idiota, avvocato delle cause perse, oltre a difendere i vandali che distruggono la nostra città meravigliosa, difendimi pure la babbiona, mo. Difendimi pure la babbiona. Giovanotto maleducato, maleducato. Lascia perdere la... Ma come ti permetti di insultare una signora anziana, giovanotto maleducato? Tuoi, ti prendono, manco maleducato. Più nei programmi dei Rossi, sei fallito. Sei un maleducato, sei. Ma leccare il culo al PD, vedi, non ti porta da nessuna parte. Io non leggo il culo a nessuno. Sei un maleducato perché hai insultato una persona anziana. Zitto, Parenzo, fai parlare un attimo, fai parlare Riccardo. Se ti piace questa fogna che insulta una persona anziana, chi? Peraltro, e ti diverte che nella tua trasmissione vengono insultate le persone anziane, tu sei una fogna che ha insultato una persona anziana. Tutte le sere, ma io me la prendo sui contenuti del merito, ma non mi metterei mai di dire a una vecchia babbiona, hai capito? Maleducato. Ma è la fiera della maleducazione ormai. Ma dai. Tu ti prendi per il culo. Io entro, io mi attacco alle idee, contesto le idee. Non mi permetterei mai di dire. Non mi permetterei mai di dire a una signora anziana vecchia, come dice lei. Esiste solo la tua idea. La parte di Parezzo è quella più semplice, no? Sì, lui si erge a difensore dei poveri, degli oppressi, degli umili, di quelli che prendono due lire, che però chi sono? Sono i poliziotti, come diceva Pasolini, no? Che ha detto bene Giovanardi prima. Non sono quelle teste di cazzo figli di papà, Somaro, che stanno all'università fino a 35 anni a non fare Somaro un cazzo e riempiono la noia sfondando la città. Ma chi ha attaccato i poliziotti, Somaro? Ma puliciti le orecchie la mattina. Ma sai, siamo al degrado totale. Ma perché Somaro, se fosse una falsità, un minimo di regola, sì, li chiuderebbero tutti quanti in un bel campo da calcio con i poliziotti e direbbero adesso carta bianca, te faccio vedere come torni all'università, a piagne torni all'università. Ma che ridi di una cosa aberrante come questa? Tutto il giorno a non fare un cazzo, li vedo io in giro, te faccio 40 appuntamenti al giorno, li vedo tutti ste secche con i rasta, a fare i cannoni, con i libri, oppure andiamo al centro sociale, ma vattene a fanculo, ma vai a lavorare, impara un mestiere, poi si lamentano, no? Perché dicono che gli immigrati i lavori li danno tutti agli immigrati, e te credo, te ce la fa cazzo. Cioè a 35 anni all'università che si è andato a spaccare la testa alle manifestazioni, quello è il massimo che hai fatto? Che fai? No, ma guarda, che, guarda che Riccardo c'ha ragione, Parezzo. Scusami, è nella sua. Se la pensi come lui. No, io no, gente, di chi ascolta giudicherà, non c'è problema. Avete distrutto questo paese dal 68 e poi con, quel, con questa propaganda idiota. Dateci il lavoro, diritto allo studio, diritto alla casa. Sì, mo vediamo tutto. Non vedo... Ma vaffanculo, ve le dovete meritare le cose. Meritare. Poi parlano di meritocrazia, capito, no? Cioè, i comunisti prima hanno sfondato un paese per 40 anni, l'hanno ridotto un cesso, sì. E adesso parlano di meritocrazia, loro che hanno diviso l'Italia in due. Scusa. Ci sono gli statali che non gli puoi fare un cazzo, non li puoi licenziare, non li puoi mandare via, gli devi dare lo stipendio pure se rubano, e poi ci siamo tutti noi di serie B, anzi C, Z, no? A seconda della condizione. Cioè, Parenzo, ma stai a parlare del nulla, cioè ci avrà due neuroni in testa che fanno TikTok. Due, sì. Cioè, dai. Vogliamo sfogato, provare? Sì. No, perché sei sfogato? Perché? Perché che c'ha? Che ha fatto? Sei sfogato? Ma guarda, ma se tu vuoi conoscere il pensiero di Parenzo, sì, è facilissimo. Tu basta che compri il pensiero unico di sinistra, tipo Corriere della Sera, Repubblica, gli editoriali di Stella Rizzo, oppure Barba Papà che fa il sermone domenicale, Zio Mauro, come cazzo si chiama quell'altro, Giannini, o anche un po'. Cioè, quello è il pensiero di Parenzo. Cioè, lui si rispecchia sdraiato, cioè, non l'ho visto una volta distaccarsi dalla posizione ufficiale del PD su alcun argomento. Lui mo che è diventato Renziano, perché prima era Bersaniano, poi mi ricordo telefonava la Serracchiani, lui brava persona Serracchiani, brava persona, le calcola tutti, certo, sì. Sei incredibile. Scusa, ma tu che vuoi dire a questa studentessa 22enne Deborah che dice la paura e il dolore mentre era a terra travolta dalla carica, mi ha colpita, non lo perdono, il poliziotto, erano tanti i poliziotti che pestavano, cioè io l'ho definita la calpestatina. Ma tu magari capitasse a voi, guarda. Ma dimmi Riccardo, come la definisci questa qua? Ma capitasse a voi magari. Questa guarda, ragazza. Io ho fatto il militare, sì, e ti posso garantire che qualche calpestatina l'ho ricevuta, fidati. A sì, differenza di te che sarai... un no, culattone raccomandato che avrà fatto o il servizio civile, no, o io ho fatto il militare. Ho fatto il militare, no? 12 mesi, sì, non è un vanto, avrei preferito molto non farlo, avrei sì, preferito non farlo, ma ti posso garantire che non è che l'augurio capitasse a voi, non lo devi dire a me. Capitasse okay, a voi. Ok. In secondo luogo vorrei vedere come sono svolti i fatti, perché a me non mi sembra che questa è stata, che questa ci ha avuto 18 costole rotte. Questa stava in mezzo a gente che menava, stava in mezzo a gente che menava, che tirava bombe carta, quell'altro gli è zompato la mano, stavano tutti con i manganelli, con i caschi, con le spranghe, con tutte queste cose. Allora se tu ti metti in mezzo a gente che mena, qualche pizza la prendi pure te, no? Beh, Parenzo, questo non fa una grinza, questo ragionamento, no? O sbaglio? Abbiamo già parlato, è una stupidaggine assoluta. È una stupidaggine assoluta. È una stupidaggine. Però voi, poverini, continuate a pensarla così. Avete ragione voi, guarda, sì, avete ragione voi. Guarda, mi sono veramente stancato. Avete ragione voi. Vabbè, ciao Rica. Ciao Rica. Buonasera. Ciao. Buonasera. Zanzara Best, il peggio dell'anno. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta continua sarà. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Radio 24. La passione si sente.